attaccata appunto da questa Lega in difesa della rivoluzione, che è un nome che si sono, cioè un'autoproclamazione, in realtà nessuno, né diciamo istituzionalmente né socialmente, non c'è stato un processo sociale che ha deciso di costruire questa di costruire questa Lega della Rivoluzione, è un'autoproclamazione. E insomma sono arrivati, hanno si sono presi a bastonate tra UGT e te, tra i manifestanti e loro, ed era un monito in qualche modo, perché era un mese che era da un mese che c'erano degli scioperi molto forti nel sud della Tunisia, promossi anche dall'UGT, in particolare quello di Siliana, ce lo ricordiamo per i metodi repressivi attraverso i fucili lì a pallettoni che hanno portato alla cecità alcune persone. E quindi quell'azione è stato un modo per dire all'UGTT: ti devi fermare, perché noi dobbiamo andare avanti con il nostro progetto di partito, e tu devi, insomma, era un monito, una minaccia. Dopodiché è stato subito appunto proclamato lo sciopero generale, però poche ore, cioè il giorno prima, verso le 6 di pomeriggio, questo sciopero è stato revocato, perché evidentemente ci sono state ulteriori pressioni, credo io, anche perché poi cioè tutti quanti volevano quello sciopero, anche le sedi distaccate, soprattutto quelle appunto nel sud, chiedevano fortemente questo sciopero, soprattutto dopo i fatti che erano successi a Siliana e in altri paesi dove continuavano ad esserci questi scioperi. E bisogna dire che c'è una differenza tra i vertici e la base. Infatti chi ha insistito per partecipare alla rivoluzione, per sostenere la rivoluzione, è stata la base del sindacato, che in qualche modo ha fatto delle pressioni all'interno del sindacato stesso per dire basta appoggiare i governi che arrivano, che vanno, essere l'unico sindacato e comunque essere un sindacato di governo, insomma, che appoggia il governo, e quindi sosteniamo questo processo rivoluzionario. Detto questo, a 2 anni dalla rivoluzione, il 14 gennaio hanno firmato il patto sociale l'UGTT con l'Utica, che sarebbe il sindacato padronale, e il governo, e poi insomma dopo poche settimane è successo tutto questo. Quindi diciamo che l'UGTT era l'unico, appunto, come dicevo prima, magari forza che è radicata in tutti i paesi. Diciamo che ha una struttura che permette al sindacato di candidarsi ad una gestione del politico, no? Parallelamente o comunque in contrapposizione a quanto prodotto dal Nahda, soprattutto da quando è al governo. Il problema, appunto, come dici tu, c'è questa, come dire, questa scissione tra vertice e base, che poi si è, appunto, come dicevamo prima, a radici lontane, perché appunto anche durante la rivolta dell'11 gennaio e i mesi successivi, ricordiamo che l'UGTT ha partecipato al primo governo di transizione, si è ritirato appunto solo dopo forti pressioni dalla base sindacale. Ah, ok, sì, abbiamo una richiamo, ok. No, c'è un compagno appunto che ha chiamato e vorrà intervenire. Appunto, dicevamo che da quel momento già l'UGTT ha dimostrato la propria incertezza, quindi è una prassi, diciamo, tra virgolette, lontana, che si è dimostrata in tutti i suoi effetti, appunto, con lo sciopero revocato il 13 dicembre. Hai evocato una serie di questioni importanti, tra cui appunto quella delle leghe per la difesa della rivoluzione, che erano state evocate anche dal compagno, appunto, da Bilal nella corrispondenza. Questo perché? Perché appunto sono importanti, perché in realtà su queste leghe per la protezione della rivoluzione vi è tutta una questione che è sorta non solo nei media, insomma, ma che in realtà scuote la stessa, appunto, opposizione interna alla Tunisia. Perché dall'inizio della rivolta in Tunisia, quindi dalle manifestazioni precedenti al 11 gennaio a quelle successive, vi sono state una serie di organismi che hanno appunto si sono candidati a difendere la rivoluzione, sia organismi che venivano diciamo dall'alto, come per esempio la Commissione per la Difesa della Rivoluzione, che è nata pochi giorni dopo la caduta di Ben Ali e che aveva, come dire, era una commissione di tecnici che doveva teoricamente guidare il processo di transizione, sia appunto altri organismi. Però visto che appunto abbiamo questo compagno in diretta, adesso appunto sentiamo un attimo che cosa ci vuole dire, come vuole intervenire. Pronto? Sì, era solo una domanda, insomma, no? Perché sento parlare di rivoluzione e processo rivoluzionario, ma dov'è che sarebbe avvenuta questa cosa? Cioè, mettiamoci d'accordo. Ma infatti la rivoluzione era una trasformazione radicale in senso collettivista, anticapitalista, eccetera, eccetera. Ma infatti sono d'accordo con te. Qualcosa del genere in Tunisia qualche volta. Sono perfettamente d'accordo con te. Il problema infatti è che se tu sentivi bene, abbiamo parlato sempre di cosiddetta rivoluzione, perché ho capito, però quando dico cosiddetta vuol dire che non lo dico io, insomma. No, nel senso che poi c'è il rischio di estendere questa cosa, no? C'è la rivoluzione in Tunisia, una rivoluzione in Libia, un'altra in Egitto, un'altra in Siria, e tutta una rivoluzione che non c'è stato. Siamo rimasti un po' distratti, insomma. Ma no, ti ringrazio per la riflessione. No, mica per niente. No, è che scherzi, hai fatto grazie comunque. Niente. Ciao. Hai fatto benissimo a precisare la cosa, però appunto dai microfoni di questa radio, soprattutto i sabati, insomma, che abbiamo cercato di approfondire anche il processo, le rivolte che ci sono state appunto per esempio in Egitto e in Tunisia, abbiamo riflettuto spesso anche con altri compagni della redazione su che cosa si intendesse per rivoluzione, e appunto proprio per questo abbiamo sempre specificato la cosiddetta rivoluzione, parlavamo più che altro di processi contro rivoluzionari, se proprio vogliamo utilizzare dei termini, se vogliamo mettere questo termine in mezzo come rivoluzione. Perché? Perché quello che è avvenuto in Tunisia e quello che è avvenuto in Egitto certo non si possono definire rivoluzione, perché non vi è stato un cambiamento né dei modi di produzione né di chi detiene oggi il potere, quindi non vi è stato un cambiamento radicale. Volevo dire, vabbè, che diciamo che i paesi comunque sono differenti, nel senso, già la Tunisia dall'Egitto ha delle particolarità, poi un'altra cosa è la Libia, un'altra cosa è la Siria, è molto difficile fare un paragone tra i vari paesi, e penso che una cosa giusta che dicono sempre i tunisini è che quando insomma loro parlano di rivoluzione ci tengono a sottolineare che la rivoluzione non è finita, nel senso che come diceva anche una compagnia egiziana che è venuta qua lo scorso anno, la rivoluzione non è stata fatta in 3 giorni, non è stata fatta solo durante il mese del 2011, cioè di gennaio 2011, ma è cominciata nel 2008 e non è ancora finita, nel senso che loro sottolineano il fatto che per quanto sì, forse rivoluzione è un termine un po' forte, un po' eccessivo, però penso che ci siano un processo rivoluzionario dura un tempo che non può essere quello di un mese, non può essere. Sì, sicuramente siamo abituati appunto per la nostra storia a degli eventi, come dire, rivoluzionari molto puntuali, dove abbiamo un cambiamento radicale della situazione dal punto di vista anche dei modi di produzione, oltre che della gestione del politico. Certo è che quello che sta avvenendo appunto in Nord Africa, loro lo definiscono Thaura, cioè loro lo definiscono rivoluzione. Poi noi, se diciamo analizzando gli eventi e quanto sta accadendo, almeno io personalmente, insomma, non mi sento di parlare di rivoluzione compiuta, però giustamente, come dicevi tu, di processo rivoluzionario, perché alcune cose, cioè, dobbiamo anche ricordarci da dove vengono questi paesi. Insomma, l'immobilismo che ha vissuto l'Egitto negli ultimi 40 anni è impressionante, l'immobilismo che ha avuto la Tunisia altrettanto impressionante. Certo è che per esempio quando alcuni tunisini parlano di rivoluzione liberale, su questo già si potrebbe essere tra virgolette d'accordo, perché appunto, e qui dobbiamo essere sempre attenti al termine rivoluzione come e all'accezione che viene data a questo termine. Rivoluzione liberale si potrebbe intendere in questo caso in Tunisia, perché vi è stata comunque la costruzione di alcune istituzioni politiche, di alcuni organi rappresentativi che naturalmente nei quali io personalmente non mi riconosco, ma che comunque sono espressioni di un modello politico liberale, con delle camere rappresentative, con un pluralismo sindacale apparente, come in realtà è pure in Italia, quindi non è che siamo troppo lontani da questo. Parlare di rivoluzione liberale già, tra virgolette, mette l'accento su un tipo di rivoluzione che magari non ci appartiene, ma che utilizza questa categoria, insomma. Quindi naturalmente su questo ci si riflette. Infatti, per tornare, no, al discorso, ricollegandomi insomma a questo che stiamo facendo in questo momento, quando è stato revocato lo sciopero del 13 dicembre, molte persone erano d'accordo con la revoca dello sciopero, perché in Tunisia, a parte che scioperi generali, cioè nazionali, ce ne sono stati veramente pochi, cioè della serie 2 o 3 da quando c'è Ben Ali, perché lo sciopero generale è uno strumento molto forte del sindacato, per appunto, dopo uno sciopero generale c'è sempre stato un evento, degli eventi molto forti di rottura, e quindi molte persone erano d'accordo con la revoca, perché quello che ci dicevano è che in questo momento la Tunisia aveva bisogno di pace, aveva bisogno di pensare alla libertà di stampa, di pensare all'emancipazione delle donne, però in un senso appunto democratico, che insomma è stato sbagliato in quel momento, perché ci sono alcune forze, no, della Tunisia, che pensano fortemente al fatto che la libertà di stampa possa essere un mezzo, ed è molto importante la nascita di una serie di blog, di blogger, di siti indipendenti, esistono adesso rispetto al passato un sacco di giornali quotidiani, la stampa cartacea, insomma, e quello per loro è molto importante, difendere quel tipo di cosa che magari per noi sarebbe, tra virgolette, considerata una conquista minima, no, rispetto appunto alle nostre esatto, abitudini. Certo è che poi vi sono appunto dei rapporti di forza di carattere sociale che ancora oggi sono difficili da scardinare, anche perché appunto il patto sociale che tu dicevi, appunto, è stato firmato da Luce Tete, non ha certo cambiato, anzi ha forse peggiorato le condizioni dei lavoratori tunisini, soprattutto in riferimento alla contrattazione, perché poi ormai Luce Tete, questo c'è da dirlo, come e qui forse una comparazione con l'Egitto è possibile, come il sindacato unico in Egitto all'epoca, ha comunque un monopolio, che per quanto dal 2011 si sia parlato di proliferazione o comunque di moltiplicazione delle sigle sindacali, alla fine Luce Tete, sia per strutture sia per appunto potere anche politico, esercita ancora un monopolio. E quando ieri è stato proclamato lo sciopero generale, vedere appunto tutte le serrande chiuse, ma veramente chiuse, i voli completamente cancellati dalla Tunisia verso l'estero, questo ci fa capire che comunque la mobilitazione e il potere di mobilitazione che ha l'UGTT in momenti puntuali può essere veramente importante. Volevo un attimo tornare sulla questione appunto delle leghe per la difesa della rivoluzione, perché comunque sono ormai veramente delle squadracce che infestano il paese, che minano alla base qualsiasi processo di come dire, di organizzazione che comunque è nato, si è prodotto in Tunisia, anche se a macchia di leopardo. Pensiamo ai quartieri appunto auto-organizzati che durante la rivolta, pensiamo anche alle, appunto, alle sezioni di base dell'UGTT, che comunque molto spesso hanno agito in maniera autonoma rispetto alla elite dirigente. Queste leghe per la difesa della rivoluzione, che sono per la maggior parte, come ci diceva anche Bilal, e questo naturalmente prendiamo per appurato testimonianze che ci vengono direttamente dal posto, sono delle milizie che sono composte principalmente, si dice, da esponenti e militanti di Ennahda. Ora, verrebbe strano, comunque fa strano pensare che oggi Ennahda si sia suicidata politicamente in questo modo, perché comunque le leghe per la protezione della rivoluzione hanno aggredito il 4 dicembre il sindacalista, dove appunto tu mi dicevi, hanno attaccato precedentemente anche esponenti di quella coalizione, l'Unione per la Tunisia, che è una coalizione istituzionale moderata, liberale, che si opponeva appunto al governo di Ennahda. Quindi teoricamente, se sono composte da Nahdawi, cioè da militanti di Ennahda, sicuramente Ennahda, almeno dal mio punto di vista, o si sta suicidando politicamente oppure non ha veramente il controllo di tutte queste leghe, perché quello che ha prodotto oggi l'attacco che è stato fatto appunto contro Belaid ha delle conseguenze enormi sul processo di legittimazione che il movimento islamico ha tentato di costruire negli ultimi mesi, e ci fa capire anche come in realtà la coesione interna al movimento islamista non sia così forte come loro ce la descrivevano, almeno nell'ultimo congresso avvenuto nel luglio del appunto 2012, perché, e questo basti pensare anche alle dichiarazioni del primo ministro Al Jebali, che comunque aveva dichiarato la costituzione di un governo provvisorio, e dicendo appunto e ammettendo che era stata appunto una decisione personale. Io personalmente non ci avevo creduto inizialmente, però quando abbiamo visto poi che la base, anzi i quadri dirigenti del partito è nata, si sono opposti alla sua decisione, ci fa capire come in realtà all'interno del movimento ci siano differenti correnti. La stessa Ennahda aveva in passato giustificato anche l'azione delle leghe per la difesa della rivoluzione. Se pensate che gli attacchi che avevano fatto queste leghe, per esempio al Kef, no? in Tunisia recentemente, che avevano portato all'arresto di alcuni militanti di queste squadracce, erano stati appunto condannati, gli arresti erano stati condannati dal movimento Ennahda, che aveva chiesto la liberazione di questi militanti. Questo vuol dire sostanzialmente incoraggiare poi una violenza di carattere dal mio punto di vista fascista, che comunque in Tunisia si è moltiplicata, e vuol dire anche poi autorizzare implicitamente una serie di attacchi politici e di assassini politici come quello avvenuto a Belaid qualche giorno fa. Ennahda ha avuto sempre una sorta di imbarazzo nel condannare degli episodi di violenza che avevano comunque una matrice islamica. Si pensi anche ai salafiti e all'occupazione che c'è stata dell'università tunisina a Manuba da parte appunto di alcuni gruppi salafiti, e che non vennero condannati fermamente dal movimento Ennahda. Si pensi alla mancata protezione che il governo, la coalizione di governo non ha accordato a Belaid precedentemente al suo assassino, nonostante le numerose richieste che lui aveva fatto per le minacce che aveva subito. Quindi vi sono la questione sicurezza dal punto di vista della coalizione di governo non è stata gestita nel migliore dei modi, anzi oggi le responsabilità ricadono sul movimento Ennahda, soprattutto perché non ha saputo agire con fermezza verso coloro che considerava tra virgolette fratelli che sbagliavano. Questo appunto lo dicevano proprio gli stessi esponenti del partito Ennahda. Una piccola pausa musicale e poi dopo riprendiamo con alcune conclusioni. Sono le 13:19, anzi 13:20 di questo sabato mattina. Continuiamo il nostro approfondimento da Radio Onda Rossa, dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 sulla Tunisia. Vi abbiamo lasciato prima di questo spazio musicale parlando appunto della questione cosiddetta della sicurezza, o meglio di come viene gestito oggi l'apparato di sicurezza in Tunisia, e delle falle tra virgolette che la stessa coalizione di governo ha dimostrato di avere nella gestione dell'appunto apparato di sicurezza. Una questione che si è vista anche poi nelle ultime manifestazioni, nelle durissime repressioni, no? Che vi sono state nei confronti dei manifestanti. Sì, quando sono stata là appunto mi raccontavano che a parte che la polizia in qualche modo è, non è così controllata e controllabile. E, dopodiché non c'è stata una rottura con il precedente regime, in quanto i vertici della polizia sono rimasti gli stessi, sono quelli che di Ben Ali. Continuano a reprimere e a spadroneggiare in qualche modo nel paese. Infatti un altro episodio, quello che abbiamo citato spesso di Siliana, dove sono stati usati appunto delle armi improprie, che sembrava appunto alle dichiarazioni di Ennahda e del governo di non essere al corrente di questa cosa, almeno dalle dichiarazioni che hanno fatto. Poi insomma non si sa precisamente questa cosa, ma appunto vennero usate dei fucili a pallettoni, dove hanno perso la vista un sacco di persone, e c'è stato un articolo che è uscito qua in Italia su quell'episodio, perché sono stati presi anche dei giornalisti internazionali che erano lì a Siliana durante la manifestazione. E, niente, per dire appunto che c'è una sorta di indipendenza della polizia, e il fatto che sia ancora legata al vecchio regime ci fa capire anche la complessità della situazione della Tunisia e del paese in questo momento. Infatti ieri abbiamo ascoltato anche la testimonianza di Marta, che è questa appunto giornalista che sta in Tunisia e che scrive per il Manifesto, e ci ha raccontato appunto che la sua impressione è quella che c'è sì una responsabilità in tutto questo del maggior partito al governo, che appunto è Ennahda, ma secondo lei ancora rimangono delle forze del vecchio regime che spingono verso questa direzione, che comunque cercano di mantenere almeno un potere dentro il paese, se non proprio istituzionale, almeno economico nel paese. È stata poi insomma molto strano anche la situazione di quelle armi che sono state usate, perché è stato approfondito quel discorso e si è capito che quei pallettoni erano state fabbricate da un'industria italiana in Tunisia, e gli è stato chiesto a questa industria perché avesse venduto le proprie armi alla polizia tunisina, è stato risposto che in realtà non c'è mai stata questa cosa, quindi per via traverse, cioè questa industria italiana ha venduto queste armi a terzi, e poi insomma sono arrivate insomma direttamente come scorta insomma della polizia tunisina. Quindi per farvi capire quanti giri e quanto non ci sia un reale controllo della repressione in Tunisia, che spesso è nell'arbitrio insomma della polizia stessa come organo quasi insomma lungi da noi insomma a giustificare il movimento Ennahda. La questione però appunto è ben più complessa, perché oggi delegittimare Ennahda significa anche delegittimare un processo di transizione che comunque aveva io almeno personalmente non giudico positivo, ma che comunque aveva una strada tracciata in maniera alquanto chiara rispetto per esempio a quanto avvenuto in Egitto. Una strada chiara che da una parte per dei limiti dei partiti di governo stava andando diciamo tra virgolette a farsi benedire. Pensiamo al fatto che per esempio l'Assemblea Costituente aveva detto che entro un anno avrebbe redatto la Costituzione, sono passati appunto quasi 2 anni e ancora la Carta Costituzionale non è pronta, si stava preparando il momento elettorale. Quindi questa situazione di caos oggi, con una forte escalation delle tensioni, ancora non possiamo veramente dire con esattezza insomma chi l'ha provocata. Sicuramente è un suicidio politico per la coalizione di governo, e non solo, se pensate che il principale esponente del Partito Comunista, che oggi non si definisce più comunista, comunque il principale esponente della corrente comunista in Tunisia, cioè Hammami, è stato tra i primi a mettere acqua sul fuoco fuoco dopo, dopo l'assassinio di Belaid, perché sapeva e sa, ed è cosciente perfettamente che ci possano essere delle conseguenze e che comunque ci sono, ci possono essere anche nuovi attori politici che possono emergere dall'appunto dal caos provocato da questo assassinio. Certo è che questo assassinio politico e la situazione di caos che si è prodotta allontana ancora di più la risoluzione di alcuni problemi di carattere socio-economico, che comunque rimangono intatti, perché comunque da questo punto di vista l'impoverimento della popolazione tunisina, soprattutto negli ultimi, nell'ultimo anno, è lampante, lo dicono appunto tutte le analisi e anche i forti, i numerosi scioperi che comunque anche se a macchia di leopardo si sono creati nel paese negli ultimi mesi lo dimostrano. Volevo ricordare a tutti quelli che ci ascoltano che domani ci sono presidi di in solidarietà alla Tunisia in tutta Italia, e in particolare a Roma, davanti l'ambasciata tunisina, ci sarà un sit-in a partire dalle 10, è stata anticipata alle 10 il sit-in, è in via Smara 7, è l'ambasciata qui a Roma, mentre un altro appuntamento sempre per domani è anche a Milano, ci sarà un altro sit-in a Milano in via dei Carbonari, sempre sotto l'ambasciata tunisina. Abbiamo anche notizie di sit-in a Perugia e in altre città, ma non sono precise insomma queste informazioni. Comunque l'importante è che ci sia insomma anche da parte dell'Italia e dei tunisini, soprattutto che stanno in Italia, il bisogno appunto di esprimere la propria solidarietà nei confronti della popolazione tunisina. Bene, sono le 13:27, abbiamo cercato insomma di mettere un po' di carne al fuoco per tentare di comprendere un pochino di più quanto c'è dietro, quanto c'è stato dietro l'assassinio del compagno appunto Belaid in Tunisia. Naturalmente l'argomento non si esaurisce qui e invitiamo compagni e compagne ancora a scriverci o comunque ad intervenire durante i nostri approfondimenti per avere la loro opinione. Io ringrazio Alessia per appunto questa sua esperienza insomma diretta in Tunisia, e anche per il contatto di Bilal, che purtroppo cercheremo insomma di risentire nei prossimi giorni per avere maggiori delucidazioni anche sul movimento di cui fa parte, sul tipo di appunto di attività, perché comunque un tipo di attività organizzata, come tu mi dicevi appunto fuori onda, in Tunisia, al di fuori dei partiti o comunque del sindacato, è qualcosa di abbastanza innovativo. Insomma, non è così semplice produrre delle pratiche di questo tipo nel mondo arabo, non ve ne sono tante di esperienze come la loro, e quindi insomma cercheremo di sentirli anche nei prossimi giorni. Da Radio Onda Rossa, questo sabato mattina, sono le 13:29, si conclude qui. A breve cercheremo anche comunque di, diciamo, il palinsesto continua, ci saranno anche dei tentativi di contatto con l'Egitto, perché comunque anche lì la situazione è molto molto tesa, e poi invito naturalmente tutte le compagne e tutti i compagni a continuare ad ascoltarci, soprattutto per la mobilitazione a Teramo che vi sarà appunto oggi pomeriggio. Molti compagni già sono partiti anche da Roma, e ricordo ancora a tutti e a tutti qui a Roma l'appuntamento domani mattina, se non sbaglio è alle 10, come dicevi tu, appunto di fronte all'ambasciata tunisina, dove appunto ci si riunirà per far sentire anche la voce degli immigrati tunisini presenti in Italia, che sono appunto numerosi, in riferimento agli eventi e agli accadimenti che stanno vivendo, che sta vivendo il loro paese d'origine. Quindi un saluto a tutte e a tutti, naturalmente in primis a chi è privato della propria libertà. Lei non sa di essere portata via da un vento che ama, crede di essere libera ma 87.9 FM. Estás escuchando Radio Onda Rosa.